Sentiamo Luisa. Luisa. Ah, buongiorno, sono Nicoletti. Io volevo dire che non rinuncio a leggere i giornali. Per me è un piacere e ne compro 3 al giorno. Invece non mi piace leggerli su internet, perché lì bisogna andare proprio in cerca della notizia, che non sai se c'è o non c'è, e poi è brutto, bisogna, cioè, diciamo, gli occhi, non mi piace stare lì attaccata con gli occhi a internet, cioè è proprio scomodo. Vabbè, lei è, diciamo, è il tradizionale fruitore di informazione, in via di estinzione naturalmente, perché quando lei anagraficamente non esisterà più, nessuno farà più questo discorso, però esiste, bisogna assolutamente con grande interesse tenere conto di lei, quindi dare a lei i giornali nella forma tradizionale, perché ancora anch'io di questo... ho sempre pensato come la signora, però ho cambiato idea. Devi cambiare idea, perché tu ci vivi su questo, la signora è importante per lei avere il contatto epidermico con la carta, con la testata che lei riconosce, con quel particolare impaginazione. È il tipico, la tipica lettrice, quando un giornale cambia la grafica gli viene uno sturbo e bisogna portarla dal dottore.